La gente di solito si riduceva a Swann, il quale, tolto qualche estraneo di passaggio, era più o meno la sola persona che venisse da noi a Combray, a volte a cena tra vicini, più raramente da quando aveva fatto quel cattivo matrimonio perché i miei non volevano ricevere sua moglie, a volte dopo cena senza preavviso. Le sere in cui, seduti davanti a casa sotto il grande castagno, intorno al tavolo di ferro, sentivamo dal fondo del giardino non il sonaglio invadente chiassoso che sommergeva, che stordiva al passaggio con il suo rumore ferruginoso, instancabile e gelido, tutti quelli di casa che lo scotevano entrando senza suonare, ma il doppio tintinnio timido, ovale e dorato della campanella per gli estranei. Tutti si chiedevano subito: una visita? Chi può essere? Ma si sapeva benissimo che non poteva essere che Swann. La prozia, parlando a voce alta per dare l'esempio, in un tono che si sforzava di rendere naturale, diceva di non bisbigliare a quel modo. Niente più scortese nei confronti di una persona che viene in visita che darle l'impressione che si stia parlando di cose che non deve sentire. E si mandava in avanscoperta la nonna, sempre felice di avere un pretesto per fare un altro giro in giardino, e lei ne approfittava per strappare furtivamente di passaggio qualcuno dei sostegni dei rosai, per restituire alle rose un po' di naturalezza, come una madre che per renderle più ariosi passi una mano tra i capelli del figlio che il parrucchiere abbia troppo appiattiti. Restavamo tutti in attesa delle notizie che la nonna ci avrebbe portato del nemico, come se si potesse esitare fra un gran numero di possibili assalitori. E subito dopo il nonno diceva: «Oh, riconosco la voce di Swann». In effetti, Swann lo si poteva riconoscere soltanto dalla voce. Il suo viso dal naso aquilino, gli occhi verdi sotto un'alta fronte contornata di capelli biondi, quasi rossi, pettinati alla Bresson, lo si poteva distinguere a malapena, perché in giardino tenevamo meno luce possibile per non attirare le zanzare, e io, senza averne l'aria, andavo a dire di portare gli sciroppi. La nonna attribuiva grande importanza al fatto che gli sciroppi non comparissero come qualcosa di eccezionale, di riservato solo alle visite. Lo trovava più cortese. Swann, benché molto più giovane di lui, era molto legato a mio nonno, che era stato uno dei migliori amici di suo padre, uomo eccellente ma singolare, al quale pareva a volte bastasse un niente per interrompere gli slanci del cuore, mutare il corso del pensiero. Più volte all'anno sentivo il nonno raccontare a tavola degli aneddoti, sempre gli stessi, sul comportamento tenuto da Swann padre alla morte della moglie che aveva vegliato giorno e notte. Il nonno, che non lo vedeva da molto tempo, era accorso da lui nella tenuta che gli Swann possedevano nei dintorni di Combray, ed era riuscito, per evitare che assistesse alla chiusura della bara, a fargli abbandonare per un momento, in lacrime, la camera mortuaria. Fecero qualche passo insieme nel parco, dove c'era un po' di sole. Tutto a un tratto, il vecchio Swann, prendendo mio nonno per un braccio, aveva esclamato: «Ah, mio vecchio amico, che gioia passeggiare insieme con questo bel tempo! Non li trovate una delizia tutti questi alberi, questi biancospini? E il mio stagno, per il quale non m'avete mai fatti complimenti? Ma avete un'aria da funerale. Non lo sentite, questo venticello? Sia un bel dire. La vita ha qualcosa di buono, dopo tutto, mio caro Amédée». Poi, bruscamente, era stato assalito dal ricordo della moglie morta, e trovando senza dubbio troppo complicato indagare come avesse potuto in un momento simile lasciarsi andare a un moto di gioia, si contentò con un gesto che gli era familiare ogni volta che una questione difficile gli si presentava alla mente, di passarsi la mano sulla fronte e asciugarsi gli occhi e le lenti del pince-nez. E però non seppe consolarsi della morte della moglie, ma nei 2 anni che le sopravvisse, diceva a mio nonno: «È strano, penso molto spesso alla mia povera moglie, ma non riesco a pensarci più di un tanto per volta». «Spesso, ma un tanto per volta?» Come il povero Swann padre, era diventata una delle frasi predilette di mio nonno, che la pronunciava nelle occasioni più disparate. Avrei pensato che quello Swan padre fosse un mostro, se il nonno, che io consideravo il migliore dei giudici e le cui sentenze avevano per me valore di giurisprudenza e mi hanno spesso aiutato in seguito ad assolvere colpe che sarei stato incline a condannare, non avesse protestato: «Ma cosa dici? Era un cuore d'oro!» Benché per molti anni, soprattutto prima del suo matrimonio, Swan figlio venisse spesso a trovarli a Combré, la prozia e i nonni non ebbero mai il sospetto che lui non vivesse più nella società un tempo frequentata dalla sua famiglia, né di accogliere, sotto quella sorta di incognito che gli assicurava in casa nostra, il nome di Swan, con la perfetta innocenza di onesti albergatori che, senza saperlo, diano ospitalità a un famoso brigante, uno dei più eleganti membri del Jockey Club, amico prediletto del conte di Parigi e del principe di Galles, uno degli uomini più vezzeggiati dell'alta società del Faubourg Saint-Germain. La nostra ignoranza circa la brillante vita mondana che Swan conduceva dipendeva evidentemente in parte dalla riservatezza e dalla discrezione del suo carattere, ma anche dal fatto che i borghesi di allora avevano della società un'idea un po' induista, nel senso che la consideravano composta di caste chiuse in cui ciascuno, sin dalla nascita, si trovava collocato nello stesso rango occupato dai suoi genitori, il quale nulla, tranne il caso di una carriera eccezionale o di un matrimonio insperato, avrebbe potuto sottrarlo per farlo penetrare in una casta superiore. Swan padre era un agente di cambio, Swan figlio si trovava dunque a far parte per tutta la vita di una casta all'interno della quale le fortune, come in una categoria di contribuenti, variano a seconda del reddito. Si sapeva quali fossero state le frequentazioni del padre, dunque si sapeva quali fossero le sue, quali persone fosse in condizione, per così dire, di frequentare. Se ne conosceva di altro genere, erano relazioni da scapolo sulle quali dei vecchi amici di famiglia, come erano i miei parenti, chiudevano un occhio con tanta maggiore indulgenza, in vista del fatto che da quando era rimasto orfano aveva continuato molto fedelmente a farci visita. Ma c'era da scommettere di sicuro che le persone a noi sconosciute che frequentava fossero del genere che non avrebbe osato salutare se, trovandosi in nostra compagnia, gli fosse capitato di incontrarle. Volendo a tutti i costi applicare a Swan un coefficiente sociale personale rispetto agli altri figli di agenti di cambio, di condizione pari a quella dei suoi genitori, quel coefficiente sarebbe stato per lui leggermente inferiore, perché molto semplice di modi e da sempre affetto da una infatuazione per gli oggetti antichi e la pittura, abitava allora in un vecchio palazzo dove accatastava le sue collezioni e che mia nonna sognava di visitare. Ma era situato sul Quai d'Orléans, un quartiere dove la mia prozia trovava fosse indecente abitare. Ma almeno ve ne intendete? Ve lo chiedo nel vostro interesse, perché temo che vi facciate rifilare delle croste dai mercanti, gli diceva la prozia. In effetti, non gli attribuiva la minima competenza, e non aveva una grande opinione nemmeno dal punto di vista intellettuale, di un uomo che nella conversazione evitava gli argomenti seri e mostrava una pedanteria molto prosaica, non solo quando, entrando nei minimi dettagli, ci forniva delle ricette di cucina, ma anche quando le sorelle della nonna parlavano di argomenti artistici. Sollecitato da loro a dare il suo parere, a esprimere la sua ammirazione per un quadro, manteneva un silenzio quasi scortese, ma in compenso si prendeva la rivincita se poteva fornire, sul museo dove il quadro si trovava o sulla data del dipinto, un'informazione concreta. Ma di solito si contentava di cercare di divertirci ogni volta col racconto di una nuova storia che gli era appena capitata con persone scelte tra quelle che conoscevamo, il farmacista di Combré, la nostra cuoca, il nostro cocchiere. Certo, erano racconti che facevano ridere la mia prozia, ma senza che lei capisse se fosse per il ruolo ridicolo che Swan immancabilmente vi si attribuiva o per lo spirito che metteva nel racconto. Siete proprio un bel tipo, Swan, gli diceva. Essendo la sola persona un po' volgare della nostra famiglia, aveva cura di far notare agli estranei, quando si parlava di Swan, che se lui avesse voluto, avrebbe potuto abitare in Boulevard Haussmann o in Avenue de l'Opéra, che il padre doveva avergli lasciato 4 o 5 milioni, ma quella è una sua stranezza. Stranezza che lei, del resto, doveva ritenere molto divertente per gli altri, visto che a Parigi, quando Swan veniva il giorno di Capodanno a portarle il suo pacchetto di marron glacé, non mancava mai, se c'era gente, di dirgli «E allora, Swan, abitate sempre vicino al deposito dei vini per essere sicura di non perdere il treno quando dovete andare a Lione?» E sbirciava di traverso, al di sopra dell'occhialetto, gli altri ospiti. Ma se avessero detto alla mia prozia che quello Swan, che in quanto Swan figlio era perfettamente qualificato per essere ricevuto da tutta la buona borghesia, dai notai o dai procuratori più in vista di Parigi, privilegio che lui sembrava non tenere in gran conto, conduceva come di nascosto una vita completamente diversa, che uscendo da casa nostra a Parigi, dopo averci detto che andava a dormire, tornava invece sui suoi passi, appena girato l'angolo, e si recava in uno di quei salotti che mai occhio di agente o di socio di agente poté contemplare. Questo le sarebbe parso tanto straordinario quanto a una dama più letterata il pensiero di essere personalmente legata ad Aristeo e di venire a sapere che dopo aver chiacchierato con lei, lui corre a sprofondarsi in seno ai reami di Teti in un impero sottratto alla vista dei mortali e dove Virgilio ce lo descrive accolto a braccia aperte. Oppure, per limitarci a un'immagine che aveva più probabilità di venirle in mente perché l'aveva vista dipinta sui nostri piattini da dolce a Combré, d'aver avuto a pranzo Ali Baba, il quale, appena sarà certo di essere solo, si infilerà nella sua caverna abbagliante di tesori insospettati. Una volta che Swan era venuto a trovarci a Parigi dopo cena, scusandosi d'essere in abito da sera e Françoise, dopo che se n'era andato, aveva detto di aver saputo dal cocchiere che aveva cenato da una principessa? Sì, oh sì, da una principessa del demi-monde, aveva detto la zia, alzando le spalle senza sollevare gli occhi dal lavoro a maglia, con serena ironia. Così la zia lo trattava con scarsa considerazione. Convinta che lui dovesse sentirsi lusingato dai nostri inviti, le pareva del tutto naturale che quando veniva a trovarci d'estate si presentasse immancabilmente con in mano un cestino di pesche o di lamponi del suo giardino e che da ogni suo viaggio in Italia mi portasse delle fotografie di capolavori. Non ci facevamo il minimo scrupolo di mandarlo a chiamare se ci serviva una ricetta per preparare una maionese e gribiche o un'insalata all'ananas in vista di qualche cena importante alla quale non lo si invitava, non riconoscendogli un prestigio sufficiente per poterlo presentare a degli estranei che venivano per la prima volta. Se la conversazione cadeva sui principi della casa di Francia, gente che né voi né io conosceremo mai, e ne facciamo volentieri a meno, non è vero? Diceva la prozia a Swan, che magari aveva in tasca una lettera proveniente da Twickenham. Le sere in cui la sorella della nonna cantava, gli faceva spostare il pianoforte e girare le pagine dello spartito usando, nel trattare quell'essere altrove così ricercato, la rozzezza ingenua di un bambino che giochi con un ninnolo da collezione senza maggior cautela che con un oggetto da pochi soldi. Senza dubbio, lo Swan conosciuto in quegli anni da tanti membri del Jockey Club era assai diverso da quello cui dava vita la mia prozia quando la sera nel piccolo giardino di Combré Dopo che erano risuonati i due rintocchi esitanti della campanella, lei iniettava e vivificava con tutto quello che sapeva sulla famiglia Swan l'oscuro e incerto personaggio che, seguito da mia nonna, si stagliava su uno sfondo di tenebre e che riconoscevamo dalla voce. Ma anche sotto il profilo delle cose più insignificanti della vita, noi non siamo un insieme materialmente costituito, identico per tutti, e di cui ciascuno non ha che da prendere visione come di un capitolato d'appalto o di un testamento. La nostra personalità sociale è una creazione del pensiero altrui. Persino l'atto così elementare che chiamiamo vedere una persona che conosciamo è in parte un atto intellettuale. Noi riempiamo l'apparenza fisica dell'essere che ci sta davanti di tutte le nozioni che possediamo sul suo conto, e nell'immagine totale che di lui ci rappresentiamo, quelle nozioni hanno senza dubbio la parte più importante. Finiscono per gonfiare con tanta perfezione le gote, per seguire con tale esatta aderenza la linea del naso, si incaricano così bene di sfumare la sonorità della voce, come se questa non fosse che un involucro trasparente, che ogni volta che vediamo quel viso e sentiamo quella voce, sono loro le nozioni che noi ritroviamo, che noi ascoltiamo. Senza dubbio, nello Swan che si erano costruiti, i miei avevano omesso, per ignoranza, di far entrare una quantità di particolari della sua vita mondana che davano modo ad altre persone, quando erano in sua presenza, di vedere l'eleganza regnare sul suo volto e arrestarsi al suo naso aquilino come al proprio confine naturale. Ma in compenso avevano potuto concentrare in quel viso, svuotato del suo prestigio, vuoto e spazioso, in fondo a quegli occhi deprezzati, il vago e dolce residuo, metà memoria e metà oblio, delle ore di ozio passate insieme dopo le nostre cene settimanali intorno al tavolo da gioco o in giardino durante la nostra vita di buon vicinato campagnolo. L'involucro corporeo del nostro amico ne era stato così ben colmato con l'aggiunta di qualche ricordo dei suoi genitori che quello Swan era diventato un essere compiuto e vivente. E io ho l'impressione di lasciare una persona per andare verso un'altra e ben distinta, quando nella mia memoria, dallo Swan che ho conosciuto più tardi con esattezza, passo a quel primo Swan. A quel primo Swan nel quale ritrovo gli incantevoli errori della mia giovinezza, e che d'altronde somiglia meno all'altro che non alle persone da me conosciute nello stesso periodo, come se della nostra vita fosse come di un museo, dove tutti i ritratti di una stessa epoca hanno un'aria di famiglia, una tonalità comune. A quel primo Swan, immerso nell'ozio, avvolto dal profumo del grande castagno, dei cestini di lamponi e di un pizzico di dragoncello. Tuttavia, un giorno che la nonna era andata a chiedere un favore a una signora conosciuta al Sacré-Cœur e con la quale, a causa del nostro concetto di caste, non aveva voluto restare in relazione, nonostante la reciproca simpatia, la marchesa di Villeparisis, della celebre famiglia di Bouillon, questa l'aveva detto: «Credo che voi conosciate bene Monsieur Swan, è un grande amico dei miei nipoti Delhomme». La nonna era tornata da quella visita entusiasta della casa che aveva la vista sui giardini e dove Madame de Villeparisis le consigliava di prendere in affitto un appartamento, e anche per un farsettaio e per sua figlia che avevano la bottega nel cortile e dai quali era entrata per chiedere che le dessero un punto alla gonna che s'era strappata sulle scale. La nonna li aveva trovati perfetti. Diceva che la ragazza era una perla e il farsettaio il più distinto e il migliore degli uomini. Per lei, infatti, la distinzione era qualcosa di assolutamente indipendente dal rango sociale. Era rimasta entusiasta per una risposta che lui le aveva dato e aveva detto alla mamma: «Sévigné non avrebbe detto meglio di così». E invece di un nipote di Madame de Villeparisis, conosciuto in casa sua, aveva detto: «Oh, figlia mia, com'è ordinario!» Ora, quel discorso su Swan aveva avuto per effetto non già di innalzarlo agli occhi della mia prozia, ma quello di abbassare Madame de Villeparisis. Era come se la considerazione che noi, sulla parola della nonna, accordavamo a Madame de Villeparisis, le imponesse il dovere di non fare nulla per rendersene meno degna, dovere al quale era venuta meno apprendendo dell'esistenza di Swann e permettendo ad i suoi parenti di frequentarlo. Ma come? Conosce Swann? Una persona che, come tu dicevi, sarebbe parente del maresciallo Mac Mahon. Quell'opinione dei miei sulle amicizie di Swann parve loro più tardi confermata dal suo matrimonio con una donna della peggiore società, quasi una cocotte, che d'altra parte lui non cercò mai di presentarci, continuando a venire a casa nostra da solo, pur se sempre più di rado, ma attraverso la quale credettero di poter giudicare, supponendo che da lì l'avesse presa, l'ambiente a loro sconosciuto che lui abitualmente frequentava. Una volta però mio nonno lesse in un giornale che Swann era uno dei più assidui frequentatori dei pranzi domenicali in casa del duca di X, il cui padre e il cui zio erano stati gli uomini di stato più in vista durante il regno di Luigi Filippo. Ora il nonno era curioso di ogni minimo fatto che potesse aiutarlo a penetrare idealmente nella vita privata di uomini come Molé, come il duca Pacquier o il duca di Broglie. Fu deliziato di sapere che Swann frequentava qualcuno che li aveva conosciuti. La prozia, invece, interpretò la notizia in senso sfavorevole a Swann. Oh, uno che sceglieva di frequentare persone al di sopra della casta in cui era nato, al di fuori della propria classe sociale, subiva ai suoi occhi un increscioso declassamento. Le sembrava che si rinunciasse di colpo al vantaggio di tutte le buone relazioni con gente per bene che le famiglie previdenti avevano onorevolmente intrattenuto e accumulato per i loro figli. Lei aveva addirittura smesso di frequentare il figlio di un notaio, nostro amico, perché aveva sposato un'altezza reale. E quindi era decaduto, secondo lei, dal rispettabile rango di figlio di notaio al rango di uno di quegli avventurieri, ex camerieri o stallieri, ai quali si dice che le regine concedessero a volte qualche favore. La prozia biasimò il progetto del nonno di interrogare Swann la prima volta che fosse venuto a cena da noi su quegli amici che noi gli avevamo scoperto. Dal canto loro, le due sorelle della nonna, anziane signorine che avevano la sua stessa nobiltà d'animo, ma non la stessa intelligenza, dissero di non comprendere quale piacere il cognato potesse trarre dal discorrere di simili sciocchezze. Erano persone di elevate aspirazioni e proprio per questo incapaci di interessarsi a quello che si dice un pettegolezzo, fosse pure di interesse storico, e in generale a tutto quanto non avesse direttamente a che fare con un argomento estetico o virtuoso. Il disinteresse dei loro pensieri per tutto ciò che sembrava più o meno vagamente collegarsi alla vita mondana era tale che il loro senso uditivo, avendo finito per rendersi conto della propria momentanea inutilità, ogni volta che a tavola la conversazione assumeva un tono frivolo o semplicemente terra-terra, ad onta dei tentativi delle due zitelle di riportarla ai loro argomenti preferiti, metteva a riposo gli organi di ricezione, lasciando che subissero un vero e proprio principio di atrofia. Allora, se il nonno aveva bisogno di attirare l'attenzione delle due sorelle, doveva far ricorso a quei segnali fisici che usano i medici alienisti con certi maniaci della distrazione. Colpi battuti a più riprese su un bicchiere con la lama di un coltello, insieme a un brusco richiamo della voce e dello sguardo, mezzi violenti che gli psichiatri trasferiscono spesso nei loro normali rapporti con persone sane, sia per abitudine professionale, sia perché ritengono che tutti siano un po' matti. Le due anziane signorine manifestarono maggior interesse quando, la vigilia di un giorno in cui Swann doveva venire a cena e aveva inviato a loro personalmente una cassa di vino di Asti, la zia, con in mano un numero del Figaro dove, a fianco del titolo di un quadro esposto a una mostra di Corot, c'erano queste parole «Dalla collezione di Messier Charles Swann», ci disse «Avete visto che Swann è salito agli onori del Figaro?» «Oh, ma ve l'ho sempre detto che aveva molto buon gusto», disse la nonna. «Ecco, naturalmente tu quando si tratta di contraddirci». rispose la prozia, la quale, sapendo che la nonna non era mai d'accordo con lei e non essendo ben sicura che noi a nostra volta le dessimo sempre ragione, voleva strapparci una condanna in blocco delle opinioni della nonna, cercando di farci solidarizzare per forza con le sue. Ma noi restammo in silenzio. Le sorelle della nonna avevano manifestato l'intenzione di parlare a Swann di quel trafiletto riportato dal Figaro, ma la prozia le sconsigliò. Ogni volta che vedeva negli altri un elemento di superiorità, per quanto piccolo ma che lei non aveva, si persuadeva che non fosse un elemento di superiorità ma un male, e li compiangeva per non essere costretta a invidiarli. «Credo che non gli fareste piacere. Per me sarebbe molto sgradevole vedere il mio nome stampato così, a tutte lettere, sul giornale, e non sarei affatto lusingata se qualcuno me ne parlasse. Non dovete, del resto, far molta fatica a convincere le sorelle della nonna, perché queste, per orrore della volgarità, spingevano a tali vette l'arte di dissimulare, sotto perifrasi ingegnose, un'allusione personale che spesso passava inavvertita dalla persona stessa a cui era rivolta. Quanto a mia madre, cercava solo di ottenere da mio padre che consentisse a parlare a Swann non della moglie, ma della figlia, che Swann adorava e a causa della quale, si diceva, aveva finito per fare quel matrimonio. Potreste dirgli almeno una parola, no? Chiedergli come sta. Deve essere una cosa talmente crudele per lui. Mio padre si irritava. Ma no, che idee assurde, sarebbe ridicolo. Mai solo tra noi, per cui la visita di Swann divenisse oggetto di una preoccupazione dolorosa, ero io. Infatti, le sere in cui c'erano degli estranei, o soltanto Swann, la mamma non saliva nella mia stanza. Cenavo prima di tutti gli altri, e poi andavo a sedermi a tavola, ma solo fino alle 8. Quando era convenuto che dovessi salire in camera mia. Quel bacio prezioso e fragile che la mamma mi affidava di solito quando ero nel mio letto al momento di addormentarmi, mi toccava trasportarlo dalla sala da pranzo alla mia camera e custodirlo per tutto il tempo in cui mi spogliavo, senza che la sua dolcezza si infrangesse, senza che si disperdesse o evaporasse la sua volatile virtù. E proprio quelle sere in cui avrei avuto bisogno di riceverlo con maggiore precauzione, occorreva che lo afferrassi, che lo sottraessi bruscamente in pubblico, senza nemmeno avere il tempo e la libertà di spirito necessari per dedicare a quello che facevo, quell'attenzione speciale dei maniaci che si sforzano di non pensare ad altro mentre chiudono una porta a chiave, per poi essere in grado, nel caso di un ritorno della loro morbosa incertezza, di opporle vittoriosamente il ricordo del momento in cui l'hanno chiusa.